d'un autre, bute à la lune il boomerang d'interflux et reflux. Me esempi sa mains sbiatten in aua dicis cum vainter stargi. Davant mia bocca as scufflen la scies da pleez. Cial si blum cribla il mar, crodan randolinas giò dal ciel, piclen da vent mescu stas. Un guatta nu resta, unic, lungo,